Mi si torna a parlare e ascoltare musica su Radio 24 per il nostro soundcheck, la nostra prova del suono. Buon pomeriggio da Gegè Telesforo e buon pomeriggio a due colleghi, giovani musicisti appena rientrati in patria da New York, carichi di energia, di emozioni e di esperienze da raccontare qui al soundcheck. Buon pomeriggio al pianista Domenico San e al batterista Roberto Pistolesi. Ciao Gegè. Buonasera a lei maestro e grazie dell'invito. Grazie per il maestro Domenico, sei sempre troppo buono con me. Allora, anche voi siete tornati a New York, ci tornate tutti gli anni per fare cose diverse. Che cosa ha New York di così affascinante per un musicista, Roberto? La vibrazione, il miscuglio di razze, generi musicali, ogni tipo di esperienza possibile, immaginabile. A New York si va per suonare, ma si va anche per apprendere. Domenico, tu hai preso lezioni, che cosa hai fatto? Io sono andato a registrare un disco per questa volta, ho preso le mie lezioni 4 anni fa quando andai per la prima volta e ho registrato un nuovo disco con Amin Salim e Dana Hawkins, che sono due ragazzi insomma della nuova generazione. Ho scelto New York per sicuramente per la sua energia unica. Quindi tornare a New York anche per registrare un disco dà una marcia in più. Intanto, quali sono le vostre aspettative? Pensate magari un giorno di trasferirvi a New York, di vivere un periodo più lungo della semplice settimana, il mese che facciamo tutti quanti, così come studio e come apprendimento upgrade? Spero tanto di sì, spero di prendere presto un visto artistico e vivere ancora di più l'esperienza della città, perché so che potrei imparare e devo imparare ancora molto. Ecco, ci sono, Roberto, molti musicisti italiani, molti colleghi, li conosciamo tutti, che vivono a New York. Quanto è difficile comunque vivere in una città come New York e quanto è difficile poter avere questo visto artistico? Avere il visto non è così difficile se hai un minimo di titoli artistici, ossia se hai avuto delle esperienze musicali importanti. Vivere lì è tutto un altro paio di maniche, in realtà, perché la vita è abbastanza dura, c'è moltissima competizione, quindi bisogna scalciare. Però devo dire, c'è una competizione sana, esatto, c'è molta meritocrazia. Meritocrazia, quindi se vali, se funzioni, se sei preparato, puoi competere con gli altri e puoi iniziare a lavorare in giro. Naturalmente consigliamo a tutti i musicisti che per la prima volta devono affrontare la dogana di non dichiarare che vanno lì per fare concerti, perché sennò se ne tornano subito a casa, ed è quello che è successo a molti amici. Perché? Beh, perché non è come in Italia, dove qualsiasi musicista arriva, viene pagato, suona, viene pagato e se ne va. Lì c'è una La syndication, esatto. Per cui se non puoi lavorare, non puoi essere assunto da un club per fare un concerto, un semplice concerto. Quindi per partire dall'Italia, per poter lavorare negli Stati Uniti, hai bisogno di un visa di lavoro, sì, dove viene segnato esattamente per chi vai a lavorare, probabilmente anche quanto devi essere pagato, perché poi il sindacato, nel nostro caso dei musicisti americano, deve in qualche modo contribuire al fatto che abbiamo tolto noi del lavoro a un musicista americano. È così più o meno il meccanismo? È così. Ecco, invece da noi arrivano e suonano al posto nostro. Al posto nostro. Vabbè, ma va bene finché sono musicisti eccezionali. Allora, parlando proprio di New York e del sound contemporary di New York, molti musicisti della nuova generazione hanno appreso la legge del blues, hanno appreso il linguaggio dello swing, del groove, dell'R&B e hanno messo tutto insieme in un grande calderone. E fra questi musicisti c'è un nostro amico, che è il bassista Derrick Hodge, approdato alla Blue Note Records, già partner di Robert Glasper, che qui arriva con Live Today, e la voce è quella del rapper Common al soundcheck di Radio 24. Just to live today. Oh. We live today for the present, knowing that it's a blessing. For our future. Giving thanks for our ancestors in the past. Forgiveness for the transgressors as we dance with ancestors. Il sound nuovissimo del bassista Derek Hodge in Live Today qui al soundcheck di Radio 24. Nostri ospiti oggi Roberto Pistolesi, batterista jazz, funk, chi più ne ha più ne metta, e il pianista Domenico Sanna, che anche a 28 anni comunque tasti neri, tasti bianchi, lui li suona tutti quanti, o quasi, giusto? Sì, quasi. Quasi, quasi. Restate in contatto con il soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Smile. Charm. Love. And you know you've got a great big heart. So over and over, I'll be a fool for you. So over and over. More can I do? La voce di Mark Murphy da questo album intitolato Hip Parade del 1960. Gli appassionati di musica avranno riconosciuto la versione, la melodia di Personality, questo è il titolo originale di questo brano scritto da Lloyd Price nel 59, portato al successo in Italia nell'edizione italiana intitolata Personalità dalla bravissima Caterina Valente. Qui al soundcheck nostri ospiti appena rientrati da New York, e sento dai vostri maglioni ancora l'odore degli hamburger e degli hot dog, quell'odore classico di New York che pervade tutti noi quando attraversiamo la strada con i tombini fumanti. Roberto Pistolesi, batterista, Domenico Sanna, pianista, freschi, freschi da questa nuova esperienza americana. Ma io quello che vi voglio chiedere, e voi che arrivate dalla provincia italiana come me, come vi siete avvicinati alla musica e quando avete capito che la musica poteva diventare la vostra compagna di vita? Io l'ho capito per puro caso, perché ero un violinista da giovanissimo, però un po' svogliato, e in realtà all'età di 15 anni per disperazione ho voluto smettere contro i miei genitori e contro tutti, e ho iniziato a suonare la batteria per reazione quasi chimica. Dopo un anno ho pensato che forse sarebbe stato il caso di studiarla più seriamente, e non mi sono mai impegnato come per quella cosa lì in tutte le cose che ho fatto nella vita. Senti, dimmi una cosa Roberto, ma suonare è una cosa seria o no? Per me lo è tantissimo, anche se sorrido molto mentre suono, forse anche troppo. Questa è una cosa che è un atteggiamento che tutti i musicisti dovrebbero avere, l'abbiamo detto molte volte, che bisogna avere anche un sano senso dello humor per affrontare questa attività. Invece Domenico Sanna, pianista, arriva da Gaeta, città di mare, dove avrebbe potuto fare tranquillamente il comandante di vascello o il pescatore per guadagnare più soldi e portarli a casa la famiglia. Invece ha scelto il pianoforte e le cose vanno da musicista. Sì, direi che, non lo so, forse il pianoforte ha scelto me, mi sono reso conto di questo. Non so, da piccolo sapevo di voler fare musicista, non sapevo di riuscirci sicuramente, ma sapevo di volerlo fare. Non so, a casa mia sono tutti appassionati di musica, cioè da mamma, papà, nonno, mi hanno sempre spinto e stimolato affinché insomma ci riuscissi, appunto. Quindi sicuramente li ringrazio, e poi ringrazio anche me stesso, naturalmente, ho fatto anche, ce l'ho messa tutta, ecco, direi. Beh, si fanno sempre dei sacrifici, si continua a studiare, a girare, a fare un lavoro che ti porta sempre a spasso, e non si riesce mai a trovare un punto fermo, no, nella vita. La cosa bella della musica è, per esempio, una cosa che ha detto Michel Petrucciani, eccellente pianista purtroppo scomparso, un pianista che ha convissuto tutta la sua esistenza con una malattia terribile, una sindrome, così veniva chiamata, delle ossa di cristallo, per cui aveva la struttura proprio scheletrica molto debole e si fratturava in continuazione. Quindi possiamo immaginare con quale sforzo e quale fatica affrontava il palcoscenico un musicista come Michel Petrucciani, un grandissimo talento. Il papà gli costruì addirittura una specie di trabiccolo che gli permetteva di poter suonare i pedali del pianoforte, perché naturalmente non arrivava a suonarli, no? E Michel ha sempre detto che fortunatamente per lui aveva questa malattia, perché così non aveva avuto distrazioni e si era potuto concentrare lavorare solo ed esclusivamente sulla musica, ma stiamo parlando di un grandissimo personaggio, è un musicista, ecco, un gigante. Grazie Domenico. Il brano che ascoltiamo con Michel Petrucciani all'opera si intitola Play Me e con lui ci sono Steve Gadd alla batteria e Anthony Jackson al basso elettrico. Questo è il soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Il batterista Roberto Pistolesi e il pianista from Gaeta Domenico Sanna, ospiti del soundcheck di Radio 24, sono appena rientrati da New York City, dove di notte andavano in giro per club e clubacci di jazz, rock and roll e altro, e poi hanno vissuto un'esperienza che credo tutti i musicisti, ma anche gli appassionati di musica vera, almeno una volta nella vita devono vivere, ovvero varcare la soglia di uno dei teatri, dei templi della musica importanti come la Carnegie Hall di New York. Siete stati alla Carnegie Hall, perché e qual è stata l'emozione quando avete superato il portone della Carnegie? Allora, perché? Perché c'era il signor Brad Mehldau che si esibiva con un'orchestra sinfonica in un progetto chiamato Orpheus. Brad Mehldau, grandissimo pianista contemporaneo, e l'emozione che c'è stata è stata di entrare in un posto storico dove chiunque, dalla musica classica al primo jazz, per tutti quanti, per tutto il pubblico, si è esibito. Come hai trovato la sala della Carnegie Hall? Perché noi siamo abituati ai teatri italiani, invece la Carnegie ha una forma circolare. Sì, intanto Carnegie Hall, cioè, per me, insomma, non so, però mi suonava gigantesca, no? Immaginati, ci sono cresciuto un po' con le registrazioni di Duke Ellington o, che ne so, Monk, quindi una volta arrivato lì c'è stata, insomma, la botta proprio di energia, no? Però, insomma, secondo me rispecchia molto proprio New York in tutto, o meglio, per quanto fosse, insomma, il teatro forse più importante che c'è a New York, aveva, insomma, qualche problema proprio sulla muratura. Problemi di intonaco. C'era un po' qualche battiscopa che magari ha interrotto a un certo punto. Beh, è tipico di New York, però tu entri anche nei grandissimi alberghi, poi se guardi dei dettagli magari c'è una piccola macchiolina di muffa che fa molto New York City. New York. Sì, Carnegie Hall è un teatro storico, ci hanno lavorato tutti, dalle grandissime orchestre sinfoniche dirette magari dal maestro Toscanini, ma è stata fatta proprio la storia del jazz, le registrazioni con Benny Goodman, Lionel Hampton e poi il bebop, come dicevi, di Thelonious Monk, fino ai grandi interpreti del rhythm blues e del soul dannata come Bill Withers e via dicendo. Ma avete fatto bene a parlare di Brad Mehldau, perché sarà lui protagonista di questo brano, che è una sua composizione intitolata When It Rains, brano scritto nel 2001 e inserito in un album dal titolo Largo. Largo è anche il nome di questo club rock and roll che si trova a Los Angeles, che Brad Mehldau frequentava in quel periodo, ed è lì che ha conosciuto il producer pop rock John Bryan, che ha finalmente nel 2001 donato a Brad Mehldau un suono nuovo, quindi non il solito sound da trio jazz o da solo piano, ma un sound sicuramente più pop ma molto incisivo, e qui ascoltiamo Brad Mehldau nella bellissima When It Rains al soundcheck di Radio 24. We'll be right back. E con When It Rains, il sound del pianista Brad Mehldau chiude l'appuntamento di oggi del Soundcheck di Radio 24, e vorrei farvi ascoltare anche il suono degli strumenti suonati da Domenico San al pianoforte, Roberto Pistolesi alla batteria, qui in un'impresa titanica, visto che abbiamo rivisitato insieme una composizione di Lucio Dalla del 1983 che allora non veniva suonata in radio proprio perché il titolo era improponibile per i disc jockey dell'epoca. Sì, il titolo è proprio una parolaccia e io quasi ve lo vorrei dedicare questo brano, e mi assumo la responsabilità della licenza poetica che mi viene concessa dall'autore Lucio Dalla. Il brano si intitola Stronzo e lo dico così anche perché poi verrà citato più volte all'interno del nostro arrangiamento. Grazie per essere stati al Soundcheck. Grazie a te GG e a Radio 24. Grazie a te GG altrettanto. Che cosa? Il titolo del pezzo? Vabbè. Soundcheck. Il suono della musica.